È un'edizione che si apre un momento di crisi enorme per il mondo economico nazionale, un po' in tutti i settori, in particolare per l'edilizia, e le costruzioni registrano per il terzo anno consecutivo, anzi per il quarto anno consecutivo, un segno meno, e anche il 2011 è destinato a segnare un segno meno. Quindi una grande aspettativa, perché qui questa manifestazione fieristica non è solo un'esposizione di prodotti di aziende, ma si cercano di creare veramente le opportunità di business per togliersi da questa situazione. Per cui apriamo con gli stati generali con tre proposte concrete che deve veramente recepire lo Stato italiano per lo sviluppo del mondo delle costruzioni, che vuol dire lo sviluppo dell'economia italiana, e questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Vogliamo anticiparle queste tre proposte velocissime? La prima cosa, assolutamente, lo Stato deve pagare i suoi debiti nei confronti delle imprese, ce ne ha per 14 miliardi di euro, questi sono soldi che mancano al comparto, se vengono dati come è dovuto ritornano in gioco. Tra l'altro, ogni miliardo investito nel mondo delle costruzioni genera 17.000 posti di lavoro. Ecco, quindi teniamo presente questo fattore, è estremamente importante. Bene, poi la seconda cosa, riqualificazione urbana. Abbattiamo gli edifici che ci stanno costando per essere mantenuti per mancanza di efficienza energetica un sacco. Abbattiamoli e ricostruiamoli. La terza cosa, diamo il via alle opere minori, soprattutto quelle al sud Italia, con i fondi FAS, con i fondi destinati al sud, perché anche quelli tra un po' tornano a Bruxelles e non li abbiamo sfruttati. Con queste tre cose riusciamo a dare il via all'economia. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione. Assolutamente, innovazione è un forum della tecnica delle costruzioni con 40 soggetti tra università, laboratori di ricerca, laboratori di sperimentazione, che si confrontano proprio per offrire in un dibattito con le aziende per il massimo dell'innovazione. Internazionalizzazione, abbiamo lavorato tutto un anno con la bellezza di realizzando 33 roadshow in 33 paesi stranieri, siamo riusciti a portare 26 delegazioni qui da noi che visiteranno la fiera, gli stand, offriranno opportunità a tutti quanti. L'internazionalizzazione, l'export è una delle poche chance. All'interno del comparto di tutto il mondo delle costruzioni, tutte le aziende che hanno avuto rapporti, ha saputo sviluppare rapporti con l'export, hanno il segno più, le altre hanno il segno nero, meno.